Sì, oggi, cari ascoltatori, avevo in programma di parlarvi dell'onorevole Casini. Era da un pezzo, da quando più o meno si è cominciato a parlare di liste elettorali, che desideravo fare onorevole ammenda delle molte battute cattive che vi ho riservato in questi anni e di dare pubblico riconoscimento al suo ruolo nella politica nazionale. In fondo, se ci pensate bene, quella dell'onorevole Casini è una figura tragica. È una delle poche figure tragiche che frequentino le nostre aule parlamentari, è stato uno dei pochi democristiani a compiere 6 anni fa una scelta precisa e ad attenervici, e non ha avuto altro che amarezze. I suoi ex compagni di partito volteggiavano lieti tra gli schieramenti opposti, facevano incetta di incarichi ministeriali e lui, fedele alla causa del popolo, non si muoveva dal fianco di Berlusconi, ma a far carriera erano sempre gli altri. A lui ne succedevano sempre di ogni e si è visto imporre il condominio con Buttiglione, è stato espropriato dal ruolo di erede accreditato della DC e quando, di fronte alla prospettiva di trovarsi alleato con la vista Bonino che a tutto c'è un limite, si è provato a eccepire qualcosa, si è sentito rispondere che non capiva niente di chiudere la bocca e di tenerla chiusa. Adesso è lì con le dita debitamente incrociate che si chiede come andrà a finire, perché anche se Berlusconi e Pannella non fanno che ripetere che ormai d'accordo neanche si parla, tutti sanno che non c'è niente di più revocabile dell'irrevocabilità di coloro. Insomma, una vita da bestie è un personaggio da prendere in considerazione. Ma dell'onorevole Casini, ahimè, non posso più parlarvi. Me lo impedisce, per quanto la cosa possa sembrarvi strana, una legge dello Stato, la legge 22 febbraio 2000 numero 28, contenente disposizioni per la parità d'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica. La legge, insomma, della par condicio, quella che la sinistra finalmente unita è riuscita strenuamente a far passare nonostante l'ostruzionismo di Berlusconi e dei suoi. E non credete, non chiedetemi, vi prego, cosa c'entri la caccia, anzi, cosa c'entra l'intera Radio Popolare, con una legge ostensibilmente escogitata al fine di impedire in fase preelettorale che dagli schermi televisivi ci si rovesci addosso una valanga di spot a pagamento. Quello è un problema, lo sapete tutti, che nasce dal fatto che una delle parti in lizza dispone per i noti motivi di un'esorbitante quantità di reti televisive. È un problema di par condicio, di conflitto di interessi, anzi, e in quanto tale, grazie al cielo, non ci riguarda. Ma evidentemente gli autori di quella legge hanno pensato che se facevano 30 tanto valeva fare 31 e che se non si poteva o non si voleva eliminare il conflitto di interessi si poteva comunque dare una regolata agli interessi in conflitto. E hanno legiferato, come era loro compito, sui messaggi autogestiti, sugli spot, sul loro numero, sulla loro ripartizione, su come pagarli e non pagarli o farseli rimborsare, sull'autorità a cui rivolgersi, sulle sanzioni cui sottoporre chi sgarra e su altri problemi squisitamente tecnici, ma dello squisitamente tecnico non hanno voluto accontentarsi. Non hanno saputo rinunciare alla tentazione di scrivere l'articolo 2,3 che assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche, nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nei confronti, nelle interviste e udite, in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche. E hanno deciso che nei programmi di informazione vanno garantite la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità, per cui in fase preelettorale, comma 2 dell'articolo 5, è vietato fornire anche in forma indiretta indicazione di voto o manifestare le proprie preferenze, e che, comma 3, registi e conduttori, noi credo, sono altresì tenuti a un comportamento corretto e imparziale, così da non esercitare anche in forma surrettizia influenza sulle libere scelte degli elettori. Il vero guaio di queste proposizioni è che a prima vista possono sembrare persino ragionevoli, nel senso che nessuno si sognerebbe mai di essere contro la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza, l'imparzialità dell'informazione. Ci vuole un po' di lavoro di analisi per rendersi conto che una cosa è l'accesso dei soggetti politici, una volta deciso ben inteso quali sono i soggetti politici, che è meno facile di quanto sembri, a dibattiti, tribune, tavole rotonde e simili, e un'altra è l'espressione di opinioni e punti di vista. E certo, se organizzo un dibattito in prima serata sul finanziamento della scuola privata, farò bene a non farvi partecipare soltanto l'onorevole Buttiglione, l'onorevole Castagnetti e il cardinale Toninelli. E non sarà il caso di affrontare il tema della pressione fiscale affiancando al ministro Visco il solo presidente D'Alema. Ma quando si tratta di esprimere delle opinioni, che è questione un po' personale, come si fa a essere imparziali? Io a essere imparziale con l'onorevole Casini proprio non ci riesco, non ci tengo neanche, o meglio ci tengo nel senso per cui ciascuno è tenuto a essere imparziale soprattutto con se stesso, risparmiando a sé e agli altri l'espressione di affermazioni cui personalmente non crede, di giudizi che non condivide. Ma le cose cui uno crede e i giudizi che uno condivide sull'onorevole Casini o su altro, imparzialità o non imparzialità, e quelli non si può proprio fare a meno di esibirli, e nessuno te lo può impedire, perché la libertà di giudizio, la libertà d'espressione sono valori fondanti della democrazia, vanno ben oltre il galateo delle campagne elettorali. Eppure di questi valori base la legge sulla parità d'accesso non tiene il minimo conto, anzi a quanto pare ne tiene soltanto quel conto che serve per vietarne l'esercizio, e non solo sotto eccezioni. E per i nostri legislatori gli unici soggetti il cui punto di vista meriti di essere espresso evidentemente sono il governo con la maiuscola, l'opposizione con la maiuscola, i candidati con la maiuscola, i leader con la maiuscola, e come a dire le varie espressioni istituzionali con la maiuscola dei partiti riconosciuti e rappresentati. A queste entità e non ad altri deve essere consentito di esprimersi liberamente, prendendo semmai le opportune disposizioni perché l'uno non insorbiti sull'altro. Dei diritti dei cittadini normali, di coloro che pur essendo soggetti politici a pieno titolo non fanno parte dell'establishment politico, non gliene potrebbe fregare di meno. I loro pareri potrebbero essere difficili da omologare e quindi facciano il piacere di tenerseli per sé. È una bella legge, eh? Una legge proprio degna ad un governo di una maggioranza che si definiscono di sinistra. Tanto nessuno la può mettere in discussione, perché sennò viene additato ipso fatto come un seguace di Berlusconi, che è una cosa di fronte alla quale uno spirito sensibile rilutta sempre, anche se adesso per radio non si può dire. E io non so quando potrò ricominciare a parlarvi dell'onorevole Casini.